Y mira a ver ahí, Gregorio, si se puso pañoso, le pasó algo extraño, mira a ver ahí. Catalino Cuomane. Chi è, va? Chi è? Sì, Antonio. Antonio, sì, io sono Giovannino. Ciao, Cla, buonasera. Ciao, Antonio. Sto usando il DAC con il termine più 3, mi ascolti? Alla perfezione. Buona come modulazione, va bene, si può modulare con questa radio ogni tanto. Stavasse con la mantova? Sì, sempre con la mantova, allora. E a Gimpolo c'è? A Gimpolo smontata, devo cambiare posto come te l'ho sul tetto. Ah. Quella va sopra, serviva spazio, ma l'ho smontata già da un bel. Allora, la piazzerò adesso, appena inizia il tempo buono, perché devo chiamare l'autoscala, capito? Facciamo che ti abbia Gimpolo. No, sto andando con la mantova. Quindi la radio è buona, Antonio, va bene, no? Si può usare questa radionina, beh, da un vecchio non l'ho usato. Sì, va bene. E tu dove sei? Capannone? Non c'è un segnale. Ti hai ragionato, sì. E io ti piace io un segnale, io ti piace vedere. È un bel forte, arrivi da lì. Un bel forte. Beh, quello lì, se non mi ricordo male, arriva a Trenica, no? Sì. No. Andava, vabbè. Scusa, lo dai? No, lo dai che arrivi a 60, no, a 30. 9 più 60. 9 più 60, sì. Sei sul 30 pieno. Certo, e già va bene. A voglia che va bene. Un cavolo che ci arrivo a casa così. No, quando attacchi arrivi 20 abbondanti, 30 non ci arrivi. Penso se buon guevi sa cosa, no? Arrivi più forte di tutti. Arrivi un bel forte. Il segnale più forte da lì è il tuo. Il tuo, quello è Roberto. Anche più forte di Antonello arrivi. Ma veramente? Dal deposito. Ehi! Allora vuol dire che ci becca. Antonello è più in alto di me. Non c'entra niente, ma deve essere coperto per me. Non c'è un segnale alto, Antonello. I segnali alti sono quello di Roberto e quello di Carlo. I più alti di tutti. E poi dal deposito il tuo. Caro, lo sai che ci contavo che era Pomponio. No, Antonello viene dopo Roberto, dopo Carlo, dopo di te. Addirittura. Sorpreso sono, pensavo che essendo in alto, detto, più in alto di me, invece non è così. Ho il canale io da casa tua, cosa ne so, per quello che arrivo così forte. Io vedo proprio la discesa di via Milano, quindi sei più aperto tu per me. Ah, ci picchia, pure capo crepo vedo che era lui che riusciva più a forte di me. Cioè, magari avendo la mantova, ma ci non entra nulla. No, è questione sempre di canale, di cose. Va bene. No, da lì arrivi un bel forte. Un bel. KK. E quindi? Io adesso, ancora non hai vinto di setti, no? E ora che prendi? Nulla, ne ero fuori. E stamattina stavo collegando il DAC a farla andare un po'. Almeno si mette un po' in funzione, se no queste radio davvero questi baracchini ci varano lo fumo. Quello è un numero che alla, come si dice, alle valvole, così, non mi ricordo mai, cioè è alimentato con la corrente, cioè le valvole, vero? Sì, 110 volt si funziona questo. A 110 c'è il è transitorizzato con lo stadio finale a valvole, 25 watt sta da. Ah, cavolo! Cioè, la 110 ci ha messo un trasformatore così. Il suo trasformatore, c'è il suo trasformatore in dotazione da 220 a 110. Sto usando il termine più 3 e watt sono 25 ne dà una FM non ne ha e 50 in banda laterale. Perché in America hanno la 110, non che valgono la 220, ma ti ho mai compreso una cosa? Non lo so. saggio. Non lo saggio. Ah, non sono solo l'americano, ci sono anche altri paesi del mondo che sono così. Io lo so, sì. Io lo so. Sarà forse per... per questione economica, sarà... Non lo so perché... c'è questa cosa. Non ricordo c'è chi viene, colui ce l'ha proprio. Cosa? C'è chi viene, quello ce l'ha ancora proprio, ce l'ha. Oh, sono quei baracchini, so. Questo è... ce l'avrò più di 10 anni. Poteva la 110 volt ce l'aveva. C'aveva quella palla per... che trasformava, capito? Sì, sì, sì, sì, lo so, lo so. Già andava, andava. Andava. E questa si accende ancora. Ma è più nuda. Ma ce l'ha lui comunque. Tranquillo, a 1000 per 1000 che ce l'ha lui. L'ho avuto oggi, quindi l'ho avuto in quella collezione che poi avevo dato, vabbè, io va bene. Sì, se torneranno a me la torna, quindi... Sì, ah, perché non te lo fai dare, se non lo usa, scusa, perché non te lo fai dare. Ha detto che ci rimane in chili, cosa ne so. Ah, boh. Non lo so, non lo so, vabbè, comunque... L'importante è che funzioni questo coso, poi allora tanto non l'accendevo, da un bel po', ho visto che sta andando, è anche bene. Qualcuno ha sul letto là, per metterci in polvere, ma più prestazione da sul letto. Io così, sono 6 metri più alta, molto più alta. No, mi serve spazio lì dove c'è quell'angolino, devo mettere la, l'antenna 5 bande, la verticale 5 bande HF. Ah, ecco, e tra cui una da capicciuria, non penso sia difficile. No, è tutto pronto, è già difficile. Non la smonto neanche, cosa devo smontare? Ho smontato solo il radiale centrale, basta. 2 minuti, filo radiale centrale, fascetto, stringo e vulcanizzo, basta, finito. Non devo mettere né tiranti né niente. Già va bene. Sì. Tempo buono, se ne parlerà. Adesso vediamo. Già c'è questa che funziona, funziona sempre bene. Sì, la manco va, manco va sempre. Io non mi posso lamentare, ne ho avuto 2 Mantova 1 con questa e 2 Mantova 5 e poi la Mantova Turbo, quella che non mi ha soddisfatto è la Mantova Turbo, però la Mantova 1 è la migliore che c'è, non c'è niente da fare. Se l'avevo rubata una me l'avrebbe piazzata. Non so chi ce l'ha avuto. Pare qualcuno ce l'ha seconda mano nuova. Se avete trovato una Mantova 1, ma non ne vado ne più. Non ne vado ne più, no. Non sei viva. Però sono delle ultime antenne. Ti durano anni. Non ne ha pochi pulsino. Sì. Che li faccio così. E avevi facile così, io l'ho smontata, la mia, l'ho pulita tutta, l'ho piazzata, e a posto, stazionale è zero, c'è cioè di zero, manco ci muovi la quello Smith. No, è buona già, per quel fatto, guarda, è in gamba vero. Oh, anche questa a me. Perché stamattina ho controllato, manco si muove. Si è piazzata bene, c'è... il coso, come si dice, della spirale è messa bene, non te ne crea problemi. Te l'avevo rifatta tutta io, l'avevo rifatta. Preso Cuboccio, agitava quando mi ero dato. Ehi, andavo a lui, a voglia. Ha ribassato un rubo, giuro. Il soldatore. Nella mola, quella da banco, glielo ho passato leggero, leggero, leggero. La punta gliel'ho pulita bene, oh, il cavolo, sono andato a assaggiare. Ad già come ti hai pensato. Cioè, fatto dalla fabbrica a Paria. Quando le cose sono fatte bene, non sono fatte bene, non c'è niente da fare. Me la rubo a io. E si conferma. Sta settimana dovrebbe arrivare il cavetto. Già non è più brescia. Sì. Già sta funzionando bene adesso quello là. Sì, sì. Ho visto che va anche con la nonna piccola. Beh certo, prima andava male perché c'erano le batterie dentro. Adesso funziona bene, sì. Poi quel cavetto me lo dai e vediamo se riusciamo a recuperarlo. Piano piano. Bisognerà accorciarlo comunque. Vediamo dove è il danno. C'è problema. Anche il problema c'è, ci andava. Che proprio per il grosso, no, ma qualche volta me l'aveva ricatenato. Ma qua no, solo baracchini. No, no, lascialo stare dov'è quello. Lascialo stare dov'è. Lì ti metti baracchina e basta, giusto per fare due chiacchiere. Non si sa mai. Lasciamo stare. Ha avuto la patente, sì. Ah beh, allora sì. Però lì. Lì ci vuole un bel Saturn, eccomi. A 220 col microfono a tavolo. Adesso che andiamo. Non occupare quanto il tavolo, sennò l'avrei anche preso. Allora. Ma il baracchino lì ci vuole, un baracchino che pompa. Che ci abbia più di 10 watt, vedi? No, no, già ci va 10 watt ancora quello. Oh, quello piccolino. Sì, dove ci va faccia? Se dì un giocattolo che se c'è un bel bene. Eppure funziona, aveva più di 2 anni sempre a vendere. Hai visto? Funziona bene. Lo so, di buoni non più. L'importante funzioni, poi già te la fotti. C'è però un alimentatore switching piccolino, di che su Ginesu, andava, se ne dominava a fotti. Io voglio che va bene. C'è però. A te in basso mi intendere. Cosa? Tutte le parti mi sentono, non ho problemi. Ah, stai scherzando, però una bella zona, ti ho detto, speciale perché si abbassa, ma è aperta. Dopo sono basso, solo quello c'è nel problema. Però Marasocchi è monella, antenna. No, funziona bene. Però da 19.30 qua va bene. Caro, ma calmante, anche un'altra parte che va bene. Un po' la parte. Perché te l'ho detto, è una zona buona. Anche se è bassa, è una zona buona. Io come sono messo tutti i palazzi qua. Sì, ma c'è quel varco di via Verona, via Venezia lì. Me lo stanno concorrendo. Cosa? Me lo stanno concorrendo, cioè stanno costruendo un palazzo lì. Già l'ho visto. Ma così, ma il palazzo, sì, palazzo con palazzo, palazzo con palazzo, se ne hanno copre. Però magari non te sta un po' già recuperata. Certo con una bombera qua, non penso che sei riuscito così forte. Va bene, quarantenne, lascia stare quella, già va bene. Certo, perché deve anche sviluppare l'altezza, quando è troppo piccola no, non ce la fa scavalcare palazzi. Vabbè. Un tubo un pochino più lungo ci metti. Questo è 4,80 metri, non già andava. 4,80 metri di tubo c'hai, quasi 5 metri. No, di antenna, sto parlando. Il tubo sarà 2-3 metri. Infatti, se dici metti un tubo da 4 metri, 5 metri, va molto meglio l'antenna sicuramente. Certo. Sto cercando un tubo di quelli, tipo come ce l'ho io questa l'ho messa. Con quei così che sono a spingere, capito? Io andrò a poter far mettere dentro lì. E va la grande, va. Capito? Se io glielo appunto da sotto, non va più bene l'antenna, chissà fa cosa. Invece tu lo infili così, stringi quei bulloni ed è a posto. Ma il cavallotti c'ha quella? No. Ah, e come l'hai messa? Dentro il tubo direttamente? Ah. E non la vedo uscire. se funziona bene deve essere cambiato. Io ne ho trovato uno un po' più lungo il pezzo, dove ci sono qui così a stringere, cioè ci sono i bulloni. Come tu metti tu a fare scoppico, giusto? Io in quel bullone, e poi alta, io in quel bullone lì ci ho messo un lì, ci ho messo la palla, il vento e ho stretto. E andava bene. Io credo che andava bene, alla grande. Te la mando la foto come l'ho fatto. La? Foto già te la mando. Ah, io. Va bene. Mandamela, vediamo cosa hai combinato. No, aspetta. Sì, te l'ho mandata, giusto per capire un po'. E dopo me ne guardo. Però ci sono quei due bulloni stringere. Col cavo che ne esce. Col cavo che ne esce? Ah, sì. Ah, ecco. L'occhiello, sì, va bene. Certo. C'è due bulloni che entrano dentro, è tutto un tubo. Ho fatto. Poi la via del dormente in occhi, no. Non si è manco mossa. No, non fa niente, lo so. Va benissimo la grande. Guarda di grande vento, ma vento forte. Ma come bello l'ha toccato. Non le fa niente, non fa niente, lo già le fa. Va benissimo. Quando le cose sono fatte bene. Manda il lucro. Manda il lucro. C'è calda calda, 30 watt, sta dando 20, 28, 27 watt. Ma non deve un po' girare la cosa, o no? Cosa, tu puoi toccare lì e non ti capisco cosa hai detto? Meglio va, aggiunto un po' girare la cosa. Questa è radio? Sì, di corrente. No, la gente dice, io già tira, tu è un baracchino, non è che... È che è bella, bella, molto molto bella. Molto bella perché è nuova, poi tutta illuminata, capite? C'è lì gli strumenti che sembrano dei rosmetri, wattmetri, che tu allo Smith è uguale allo rosmetro della Delta G. Questo è a 110 con la corrente americana, consumano di meno, consumano? Quelle che sono qualcosa. Ma non consuma la radio 220, ma tu cosa consuma? Assorbimento è pochissimo, cioè non c'hanno pochi watt. Non lo so, dicono che quelle a 110 vanno a confronto a 220 consuma di meno. Beh, sicuramente sì, però sto dicendo anche una radio 220 non consuma, c'ha pochi watt. Le valvole sono uguali, sono a quelle che utilizziamo noi o sono di completamente diverse? No, dei lineari, le valvole lineari, no, sono fini, lunghe. Fini quanti un dito sono, ne ha quattro. No, di quella radio. Ehi, di questa radio, le valvole sono fini. Si trovano qua? No. Le ho trovate fuori, mi costa una barca di soldi, anche 25 euro l'una costa. Cazzo. Questa è già la seconda, non mi ricordo se è la seconda o la terza volta che le ho cambiate. Ma è che si scaricano in fretta? No, la prima volta mi ha fottuto perché l'ho lasciato un bel po' fermo. Si sono esaurite da sole. E invece poi mi ha detto un tecnico che conosco, mi ha detto quando la radio non la usi, le valvole staccale, togliele. E le avevo tolte l'altro giorno, da poco, un paio di settimane fa. Le ho messe, l'ho accesa, l'ho lasciata un po' accesa e adesso la sto usando, infatti sono sempre gli stessi. Purtroppo se non le usi bisogna togliere, sì. Se no le devi trattare ogni tanto. Lo so, non le devi trattare sì, però io lo sai, non le uso baracchini, adesso è giusto per farla andare un po', poi la spengo e rimane un altro po' di mesi spenta. Io uso i K, che mi interessano di più, a Chita di costa 25 euro, pareggi due valvole, si appoggia. Se ti rompe un K è un casino. Lo so. È un casino. Ma c'è una ricezione, c'ha due colonnine, amico. C'ha due altoparlanti, uno a un lato e uno all'altro. E quanto si vale di sala? Ma io l'avevo pagata a 400 euro. Così è, no? E 400 euro più tutto il resto, se mi torna a 500 me l'ha venuta quasi, tra sdoganamento, balle, poi per trasporto. Pesa 21 kg, Sgranavezia, Guarda, c'è il Galaxy sopra, è due volte del Galaxy. Come larghezza e profondità sono uguali, come altezza sono, è due volte del Galaxy. Sì, roba mastodontica degli anni 70 al minimo. Non so questo di che hanno, perché ne avevano fatto diverse serie. Questo è il DAC Mark 10 SSB, poi hanno fatto anche il Mark 9. Questo c'ha 260 canali, mi ha detto. C'è il gioco, ma c'è un bel canali, poi c'è tutto, c'è il rosmetro, incorporato, ma grande strumento, però strumento per il rosmetro, strumento per vedere la tensione delle valvole, quanto è la tensione corrente, eccolo qua, platte corrente, e poco assorbimento c'è la bello, tutto cromato, mi antuccia le maniglie, c'è inossidabile, è perfetta. Già, prima o poi già la già vengo a vederla. Ma perché non l'hai mai vista? No, di persona mai. Nella foto vista la vedi? Sì. Ecco, è una bella rabbia. C'ero io, Marco Scorpion e Walter di Abulic, penso in Sardegna, penso. Marco già ce l'ha. Sì, io, lui e Walter ce l'abbiamo, c'è l'altro nessuno che sta là. Ma mi pare una volta ce l'aveva un'altra persona. Daniele? Non è questa. Ma quella lì l'ha venduta a te? Sì, sì, sì. 10 anni fa. Me lo ricordo bene che ce l'aveva. Sì, sì. Ce l'aveva lui, gliela aveva data a Walter, lui l'ha data a me. Ce l'avevo più di 10 anni, but non so, sempre nuova nuova. Funzionano sempre con la radio. Va bene, Clara, ti lascio, ci sentiamo. Devo fare altra roba. Ciao, ciao. Ciao, Anto, più tardi se coinciderai. Grazie delle due chiacchiere. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Stesso la tripla 5, un passaggio veloce in 10 metri, ascoltare qualcosa, ma poi non ho girato il canale boh. K, questo è il presidente col microfono di stamattina, però gli fa un po' da collo di bottiglia, lo sai, perché il 3009 è più aperto in modulazione, c'è niente da fare, e gliel'ho aperto già, è qua, quindi non, più di tanto lo puoi ottenere, dai. No, va bene Marco, già va bene. Ottimo, ottimo. No, io stavo ascoltando sul 4, proprio tecnico di trasmissione, poi girato. Gappa, gappa. Va bene, stavo detto, va bene, guarda, io ti stavo ascoltando col DAC, col Galaxy, con tutti i 4 gappa, con gli Aesio. Molto bella la modulazione, mi piace, corposa, bella. Ehi, sai cos'è? Che mentre il 3009 c'è ancora il naso mezzo chiuso, porca miseria, mentre il 3009 ha il trimmer della modulazione e boh, qua c'è il trimmer della modulazione più il trimmer del limitatore della modulazione M, quindi bisognerebbe aprire anche l'altro, però il limitatore se l'hanno messo, motivo ci sarà, capito? Se no vai altre, oltre il 100% comincia davvero a strappare, capito? Comunque vedo che mi metto a questa distanza, vedo che si muove lo Schmitter lo stesso, dicendo vabbè ascolto, così è e così me lo tengo. Però col 3009 è imbattibile, sul Galaxy, sul Saturn lo stesso, questo va bene, sul Pluto, tutti quegli apparecchi là. Ma come ti ho mandato la foto a me, dove lo stai usando adesso? Sul presidente McKinley, ce l'ho a 2/3. Quello che avevo visto io in macchina a Piazza Vici? No, tu hai visto Richard, il presidente Richard mi pare. Ah, ho capito. Comunque ti ripeto, la modulazione va bene, bella, corposa, le tonalità sono giuste, non è metallica, bella, va bene, a me piace. E attività ne state facendo in VHF? Io sto ascoltando poco, soliti 525 eccetera, ma forse si è un po' rallentata dopo le prove iniziali di Roberto, magari sta spaziando in HF, che ne so. Sì, stiamo spaziando un po' di più in HF, soprattutto Roberto sta girando un po' tutta l'Europa e qualcosa anche oltre. Gli altri siamo un po' così, ma è quello, è come il canale 10, non è una frequenza da ascoltare, da fare, è un monitor che abbiamo, facciamo salotto, facciamo prove, gestiamo il monitor, capito? Ma se tu spazi, magari c'è qualcuno dei nostri in 10 metri, in 40 metri, in 20 metri, già stiamo girando un po', io poco, perché non è che abbia antenne, ho solo antenna di 6 metri e basta. Quest'estate vediamo se ce la faccio, monto la 5 bande, perché non la giuriamo, ma è la verità, non ho voglia, sto facendo altro, sto seguendo molto mia moglie, sto facendo un sacco di visite, un sacco di cose, capito? Quindi ciò che ho fatto, è più importante, le antenne e tutto il resto. E infatti anche mamma è stata poco bene, quindi c'erano i giorni passati che stava entrando poco e niente, adesso sta un po' meglio, ma bisogna stare sempre un po' sull'attenti. Ascolta, quell'antenna che hai tu poi, non erano ordinate altre a Sassari? No, a Sassari no, ne ho fatte arrivare una decina a Cagliari, qualcuno a Nuoro, a Oristano, nella zona, capito, e basta, adesso è tutto fermo, adesso è tutto fermo, non c'è niente, no? Ma molte radiomatture erano comprate per fare la verticale per i 10 metri, una bomba, cioè c'è una bomba, favolosa per i 10 metri, una verticale per i 10 metri da favola. Eia, poi è silenziosa anche, dovrebbe essere un po' più silenziosa la J-Pol rispetto alla verticale. Naturalmente sapevi il limite di quell'antenna, sì Claudio, che nonostante la lunghezza, la parte che irradia effettivamente è quella dopo quel radiale parallelo, cioè dopo quello stilo parallelo, praticamente trasmette come se fosse una mezz'onda. Invece il pezzo iniziale, quello dove è affiancato dall'altro stilo, è è solo la zona di adattamento barra alimentazione o roba del genere. Sì, l'ho studiata bene, però ma siete bravi, c'è una ricettina da favola. Sai che vorrei entrare, bombolini, ma pure a Marco Condo sembra molto, dai io, vai bini dai chivi. Bisogna prenderla a calci nel sedere a bombolino. Mia, quel coccomane. Mia, coccomane, mi ho chiamato poco fa, non mi ha risposto. Ma è un bel grosso, ma ti fai vedere la fra di vera culo. Non ce la fai. Capito, Natalino. Ma c'è un segnale, io lo riconosco al volo. Anche a te sopramodula, Marco. A tutti i greb, ragazzi. Quando è lì, al posto di combattimento, lavoro, ammazza a tutti. Avanti, Antu. Ehi, buonasera a tutti. Ciao Antu, ma io Antonio Rubile la confidata. Ciao Antu, sì, ma poi lì è più vicino a te, no, lì sì, è più basso, però linea d'aria dovrebbe essere più vicino. No, ma è aperto per me, io vedo, capito, ma c'è un segnalone 9.30 liscio con pochi vatti. Mi arriva a 9.25 quando attacca la casa sua, figurati, da lì è una gente. Ci arriva più forte di pomponi o anche? Figurati. E conta che c'è l'antenna bassa lì, perché non c'è il palazzo, capito? Ce l'ha. Quanto palo hai, Antò? 4 metri, 6 metri, quanti erano? Ah, avrà già 3 metri in baro, e boh. E figura. Cos'è sto casino? Figurati a mettere un tralicetto lì, anche roba piccola mia, una decina di metri, ciucciù. E se metto 10 metri di palo spacco, cioè, distruggo a tutti qua, cioè, devo lasciar perdere. Quella è una zona buona, Antò. Caspita, tu immagina quei palazzi che ci sono a fianco, no? Se uno avesse l'antenna lì sarebbe eccellente. Eccellente come zona. Non è come qua, o come Natalino lì, purtroppo è molto sacrificata la posizione sua. Natalino, riprendi. Natalino sta preparando il sugo. No, ma io già lo so, una bella zona quella. È una bella zona, perché lì c'è un animatore, quello trasmette, il cazzo trasmette un bel forte. Eppure è basso, capito? Però è molto aperta quella zona. Non so pensare come gli arrivo a coso, ma che è il mio vicino più vicino. Non mi viene a Fabrizio mi deve arrivare a fondo scala da qua. Ma lì arrivi sia a fondo scala con Fabrizio, ma aspetta una decina di avario, sia che c'ha l'antenna girata, già pagato, e arrivi bene da lì, arrivi benissimo, hai fatto un affare, così quando sei fermo e fai due chiazze arrivi da tutte le parti. Natalino sta facendo. Sì, è un bel microfonino, Marco, anche esteticamente non è brutto quel microfonino, ma l'hai preso su internet. Sì, vabbè, esteticamente sembra un giocattolo. Poi queste forme asimmetriche, sì, l'ho preso da Technology Shop, technologyshop.it. Questi in un periodo li trovavi solo dall'Inghilterra. Guarda, venivano usati molto in Olanda, in Inghilterra, in Russia, cioè quando vedevi le recensioni erano tutti quei paesi dell'est, Polonia. In Italia non ne trovavi mai, lo dovevi comprare da Camsat dall'Inghilterra, ma ti costava più la spedizione. E poi c'era questo italiano che l'ha portati, li sta vendendo praticamente a parità di batteria carica, spinge più dell'M93, lo sai, dell'M95 qual è, mettendo la manetta, spinge di più, anzi ti dirò che l'M93 o 95 spinge ben poco rispetto a questo, sul 3009 dico, Sì, ma va bene, ti ripeto, come modulazione, come tutto va benissimo, non ci sono problemi. Riprendi Antò, un secondo che mi devo accentare che mi hanno chiamato, arrivo subito, riprendi Antò. Capo, vai. Non ti preoccupare qua. Vabbè, Marco, è un po' che non ti sentivo. Lì dentro c'era mamma che non stava tanto bene e quindi bisogna essere su chi va là, poi sai, anziana. Bisogna stare sempre con un occhio aperto e l'altro pure. Lo so, purtroppo quando non sento bene. Cappa. E la notte state entrando, Luca, non state più entrando. Avanti già. Buonasera a todos. Doppio room. Io buonasera già. E quanti anni fa che sta femmina? È grandezza, no? E alle soglie degli 80. Purtroppo gli acciacchi ci sono. Ciao già, ben entrato, ben sentito. In compagnia di Antonio Bombolo, Claudio, c'era anche quel cuoco e Natalino, ma fa entra esci. Capa. Ciao Marco, ben sentito anche a te, dai. Avanti Claudio. Ciao già. Vabbè. Andiamo indietro, karaoke. Sempre, tutti i giorni. Adesso lo facciamo sabato, lo faccio da un'amica in campagna. Organizziamo e siamo una greppa, facciamo una arrostita e cantiamo. Invita qualche volta pure a me. No, tanto io sono invitato, non posso invitare altra gente, non è che posso fare quello che voglio in casa degli altri. Già lo so, una battuta così. Bisogna imbucarsi. Avanti Marco. Bisogna imbucarsi come alle feste, ti presenti, ti infili tra le persone, ti posi a tavola. No, anche quando mi fa vedere il karaoke a me mi piace, mi compreso. Guarda, lì c'è tutta gente che canta, nei locali, quindi la gente che c'è lì sanno tutti cantare bene. Aiù, una greppa. Hanno Lugo l'allenata, beati loro, guarda. Quando sto una settimana mi prendo un bel male, soltanto mi sto talmente abituando che per me è come se mi sia morto qualcuno quando non mi diverto, non canto. Purtroppo però devo stare così anche, non è che posso stare sempre a cantenno. Basta non bere. No, ma non si tratta di bere, no, è che proprio mi piace cantare, compreso. Oramai mi sono preso quell'abitudine. Ho qualche volta che mi salta, che ho tempo, cosa posso, pure all'ora di pranzo. Attacco un mixer, aggiungo una cosa per fare subito, capito? Già te lo dico come ti ha giovato. Quando mazzo ogni tanto attacco lo microfono, attacco tu canto, mi pongo a cantare. E io lo faccio tutti i giorni con Star Maker, mattina e sera, lo faccio sempre. Aggiungo praticamente, siccome Antonio è un inventore un po' pazzo, cosa ho fatto? Il capo stereo del mixer la giubuccio all'incontrario, capito? Siccome è stereo sempre, i due capi che vanno al mixer sono due jack e poi c'è il jack quello che va dovrebbe andare al computer. Io l'ho fatto all'incontrario, l'ho fatto, capito? E va dall'amplificazione del Bose che ho a casa, per non stare a togliere roba e cose. E i due jack li attacco lì, invece sono stereo, invece, capito? E poi piglio il microfono, attacco le cose e canto. Ma io ho la cassa amplificata, se vuoi, attacco quella con le Bluetooth. Non c'ho manco fili né niente, in mezzo alle scatole posso cantare come voglio, tranquillamente. Già hai cantato pure tu a casa, già lo sai. Sì, vabbè. Ma con quello là è un'altra storia. Vabbè. Col mixer regoli bene la cosa pure. E questo amico mio c'ha tutto, c'ha un mixer grande, c'ha un televisore enorme per cantare, capito? C'ha tutto, ha una villa in campagna, c'ha tutto quanto, non gli manca nulla. E c'ha questo televisore che è enorme, sa 55 pollici, cosa ne so, si vedi le parole enormi, anche un cieco li vede. Così c'è più gusto a cantare. Mamma mia, un addio cantato da un amico mio, sopra in via Graziere e Zainato, Dio ce ne scampi. Abbiamo pagato 50 euro, mi ha pagato, io lo faccio così, io lo faccio. Cioè, uia, mamma mia, un disastro cantare con quella roba. Però avevo cantato una pessima, mamma mia, guarda. La mia casa, se la metti a tutto volume, va bene per una sala grande, capito? Va benissimo, c'ha un sacco di vatti, va molto bene, poi si sente bene, soprattutto quello. E ci può attaccare anche due microfoni, poi mette la pennina, poi fa un sacco di roba. Costa due lire e va molto bene. A me mi basta, in casa fate proprio troppo burotti, infatti la metto al minimo, perché se no se alzi troppo in condominio ti buttano fuori. Non è che ti buttano fuori, però se la prendo io tremo sul palazzo. Qualche volta infatti vado basso perché mi sento in tutta la via, se no mi azzocco quando attacco quelle, non tanto quanto le auto zoccano i voci romatesi, niente da togliere, ma quando attacco quelle DB, cazzo, trema tutto il palazzo. Infatti no, evito di accenderle. Non le attaccare troppo a volume alto, prima che ti detta ti apri la casa e ti rifulano. Vabbè, avanti Marco. Gianni. Oh, dimmi Clark. Ah, mi ha riconosciuto, sono andato col Daffi al canne più 3, bene va. A voglia. Va bene, va bene. Dai, vi sto ascoltando, lo stavo usando poco fa, poi ho commutato il K, adesso glielo faccio sentire a Gianni. Era più di un anno spento. Sto andando con 25 watt. K, ma ti ha fatto quel lavoro, Ocla? No, no, no, solo no, questo è il DAC, non è il Galaxy. Ah, il DAC, io ho capito il Galaxy. Già, riguarda quel discorso, non ti preoccupare che già faccio una telecamera. Cioè, fatemi qualche cosa, li vedo subito. Ehi, Anto. No, questo è il DAC col turner più 3 da tavolo. Sto andando con 25 watt. Va benissimo, va benissimo. È buona la modulazione, no? Bella calda, sembri Claudio il caldo. Claudio il caldo e Gianni il freddo. Avanti Marco, riprendi, già torno subito. Cappa. Gianni, a proposito di Galaxy, ma il tuo l'avevi messo a posto? Ti avevo sentito che c'era qualcosa a livello di finali, non ci ho capito nulla. No, no, allora i finali che dovevo cambiare ha cambiati, entra la portante, si sente il QRM, però non esce di radio, ci sono da cambiare i finali dell'audio, i finali audio proprio. Sì, sì, sì, il modulatore. Sì, è un difetto che ogni tanto si poteva presentare anche su questi, anche, cioè, non questo di adesso, sul 3009, sul Pluto, a qualcuno era capitato di bruciare il finale audio. Poi i finali bisogna trovarli comunque originali, Migia, perché ci sono tante di quelle fregature. Guarda, te ne accorgi anche dalla forma dei finali, per esempio i famosi 1969, mi pare devono essere Mitsubishi, e devono avere una forma anche delle alette sopra, di quella dove si infila la vite, no? Per fare massa. Deve avere una forma ben predefinita, ci sono tante di quelle coppie, ma è mondezza, cioè anziché darti, che ne so, 4 watt normali, te ne dà 1, 2, sono pasticci, proprio robaccia cinese. No, quelle che abbiamo comprato sono originali, e anche quelle che abbiamo ordinato in Inghilterra sono gli stupisci, però non monta 1969, il mio non è montato un altro tipo di finale già dalla fabbrica. Io anche io, quelli, cioè io qua ce li ho, i miei tubisci, più ti gaghi più ti bisci. No, non vi grido. Facciamo due spacciatori anche. Sì, aspetta che c'ho la telefonata. Sì. Avanti. Chi c'è rimasto? Natalino, ci sei. Oggi Natalino è Uccelli Bosco. Cava cava. Sì, già, eccomi. Meno male. Ma devi uscire, è lavoro? No, ma c'è Maddo Sara, ma c'è Maddo. Un attimino. Ti stavo dicendo, quindi siete in fretta, siete? Cos'è, una campagna isolata? Diciamo di sì. Diciamo che non è centro città, ecco, è in periferia praticamente fuori Sassari. Con rottura di scatola ci avete. Possiamo alzare il volume a quanto vogliamo. Se ha voglia. Ma guarda, per il karaoke non ci vuole un grande volume, perché alla fine ti disturbi tu, capito? Ci vuole una potenza adeguata, ci vuole. Perché se ha un frastuono poi non riesci manco a cantare. Allora, uno quando canta non deve gridare innanzitutto, deve cantare e non gridare. Se grida, stona e poi bisogna praticamente livellare sia la musica con chi canta, capito? Col cantante. Certo, beh, è logico. Cioè, perché se tu, se non dai troppo, se dai poco microfono, devi alzare più la tonalità e ti dà anche fastidio a te. Devi dare il microfono giusto, li devi dare a chi canta. Ti sono un bel male compreso, no? Un po' di voce mi ha rimasto, però questa cosa è faccio, li voto così, li voto. Sali. Lui mi capisce, sai, mi dà di più. Ma sono da Costantino, me lo sollevo io il volume, a mio piacimento. Un po' di volte so dov'è, io lo so subito, tra, e me lo metto giusto. Ma chi un po' di voce, burueto, i bagia. Cioè, quando uno canta, cioè, non siamo tutti uguali, purtroppo. Cioè, a me mi devi dare un pochettino più di volume, perché sennò io ascolto troppo ed è un casino. Perché non si canta di gola? Già lo so. Proprio Maghizio che gli dico, gatto, dammi più volume. Non ti devi sforzare a cantare, tu la voce deve uscire normale, capito? Deve essere tranquilla. Appunto per quello, è per quello che io gli dico, dammi un pochettino il microfono. Proprio per evitare che uno, e sembra così, ma ti altri fatti di un verme. Quando va se ne si gaggate. Cioè che no. Cioè, se tu a me mi fai uscire il microfono giusto, io non mi lamento. Canto lo stesso, però mi dà fastidio. Io a due lo metto, a due. Va benissimo a due. Due, tre, proprio andando male. Già. Mixer. Ah, due il mixer. K. No, vabbè, non mi sono intrometto, scusate, ma è l'introduzione. No, ciao Bruno. Chi è Bruno? Vittorio. Ah, Vittorio, sì. Qui, Vittorio era. Qui, Volpe, da quanto tempo? Buonasera. Buonasera, come stiamo? Non c'è malaccio, dai. Adesso l'ho voluto accendere un attimino per fare un po' di riscaldamento. Cava, cava. Meno male sta ancora andando la radio. Quanti anni ce l'hai adesso l'antenna, Vittorio? Beh, questo del 78, immagino. Cos'è? La Mantova 5? No, la 1. Ah, la 1, figurati. Caspita, mi sembravi la voce di Bruno Ragano, lo sai? Sì, un po' gli assomigliamo. No, vabbè, questa antenna ormai c'ha due radiali solo, gli altri sono caduti, l'hanno fatta cadere le cornacce. Ma i radiali ci possono sempre rifare, vai da Bricco, vendono le stecche in alluminio, rifai, come ho fatto io. No, vabbè, i radiali ce li ho, sono stati strappati dal montante. Ma magari quelli sono più corti adesso, quelli non messi a misura. Andavi. Avanti Marco. Ma sei a Vittorio comunque, è da tanto tempo senza sentirti. Ciao Antonio, buonasera anche a te. Appa, salutoni, ebbe sentito. Comunque è qua zona via Milano, Ma come, guarda. Stai arrivando bene? Sì, beh, io sono una zona completamente opposta, comunque questa antenna che ho io purtroppo è un po' vecchiotta, ormai ha fatto la sua strada, infatti quando cadrà giù non modulerò più perché non emetterò le antenne. Ragazza, sei 9.5, 9.10 da qua, non so io lì come ti arrivo, comunque sei forte. Lo so, ma vabbè, questa è una situazione di 5 watt, perciò un apparecchio che non sia molto, molto sofisticato. Altre che ne ho, questa è una radio normalissima, è la quella sulta che uso sempre quasi, dai. No, però va alla grande qua, va alla grande. Vittorio, sempre suonando stai. Mi accorto alla al discorso del karaoke, siccome io lo faccio, i microfoni non è che sono molto importanti, sono importanti fino a un certo punto. Il microfono è chiaro che deve avere una sua validità, perché ci sono microfoni CPTO, ci sono quelli che usano adesso quel karaoke, che fanno veramente pietà in certi locali. Se usi i microfoni buonini, insomma, non è che il microfono ti fa cantare meglio, attenzione. Se tu non sai cantare, si suona a tostoni e il microfono cosa fa? Il microfono è un messaggio. Tu, se vai in gacca, è inutile stare lì a discutere. Quindi il problema è l'intonazione. L'intonazione la deve dare la voce va diaframmata. Se tu la dai col canto, con la gola, sforza e non vai fuori. È importante il diaframma. Se non si canta col diaframma, purtroppo molti stonano per quel motivo. E anche lo gioco. No, i miei sono buoni, no. Non ne uso a mondetta io. Beh, gente tratta che ci cinesi, no. Io c'ho gli Shure. Che tratta? Fitto, io ho comprato gli Shure. Sì, lo Shure è buono, per carità, non c'è problema. Ma anche c'è il Sennheiser, c'è l'HG, ma il problema non è del microfono, il microfono intanto ormai anche i cinesi, adesso per carità io non voglio dire niente, non voglio salvare i cinesi, però ormai la microfonia sono tutti a livelli buoni. Ora, per fare il karaoke non è necessario avere un Sennheiser che costa 3.000 o 4.000 euro, che cosa dobbiamo fare? Per cantare due canzoncine in un locale, in un circolo. È una pazzia acquistare microfoni a quei costi, perciò bastano anche normale, anche perché grande professionalità sui canti non c'è, quindi in gran parte il 90% di chi canta stonano, sono suonati perché non sanno cantare, purtroppo non c'è questa cultura. Alcuni sono bravi, per carità, alcuni sono bravini perché cantano a casa, si allenano eccetera, però gran parte sono suonati ed è un disastro. Io mi arrabbio molte volte, però mi sto zitto perché non posso dire niente. Vito, non è che uno quando va al karaoke canta a livello professionale, canta per divertirsi. Poi se uno è tonato, ben venga, però uno va per divertirsi, anzi sono proprio quelli stonati che fanno ridere. Mamma mia, te ne mando uno, mamma mia, per carità. Vabbè, quello è un caso patologico. Gli intonati non li applaudono perché non c'è bisogno. Avanti Marco, c'è anche Claudio. Mi pare che l'ho chiuso. Già lo so già, perché non li sento un bel di volte. Purtroppo, io già ci vado al karaoke, ma ne ho visto di cotte di crude. Non ho visto. Vabbè, comunque non c'è lo festival. Alla fin fine. Ma uno non va per fare le gare, va per divertirsi, per sfogarsi, per staccare la spina. Lo so. Certo che se uno canta bene fa più bella figura, è normale. È logico. Vabbè. Chi si è proprio stonati, purtroppo, cosa devi fare? Bisogna accettare e basta. Io mi diverto anche su un'app, canto, mi danno i punteggi, tutto quanto, è un gioco, capito? È un gioco per divertirsi, per staccare un po' la spina, quando non sai cosa fa, mi decanti. E a me cantare mi piace la musica, ho sempre amato la musica, quindi mia figlia canta lo stesso. Quindi non c'è problema. Anche a me piace la musica. Anche da bambino mi è sempre piaciuta la musica. Poi dopo un po' di anni mi è venuta la passione del karaoke. Non canto solo io, no, a casa, canta anche mia sorella, forse anche più brava di me. Anche Emanuela canta, ha cantato, era la cantante di Telegim.